Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buongiorno, benvenuti, sono Luca Tremolada e provengo da una sessione intensiva di gormiti con il mio nipotino Pietro di 5 anni. Ecco, dopo 2 ore di gioco intensivo ho sostanzialmente capito una cosa, che Magmion, il signore del vulcano, che dovrebbe essere il più cattivo di tutti, in realtà non è un cattivo, è una vittima, è un disadattato vessato dalla società, e voglio chiedere conto di questa ingiustizia direttamente a Leandro Consumi, che è il papà dei gormiti. Ora, in una brevissima scheda, vediamo chi è Leandro Consumi. L'isola di Gorm era popolata da creature pacifiche chiamate gormiti. Un giorno il signore del male, Magor, si risvegliò dal suo sonno all'interno del Monte di Fuoco e sterminò l'intera popolazione dell'isola con i suoi guerrieri del magma e della lava, comandati da Magmion e Lavion. Comincia così la fantastica saga dei gormiti, i mostriciattoli che fanno impazzire i bambini italiani e ormai di mezzo mondo. Il loro inventore, meglio il loro papà, si chiama Leandro Consumi, è fiorentino e fin da piccolo perdeva le ore dietro la sua fantasia. Oggi ha 35 anni, ma non ne aveva 30 al giorno in cui si presentò da Enrico Preziosi, presidente della Giochi Preziosi, per proporgli la sua idea. Una serie di pupazzetti di plastica alti dai 3 ai 5 centimetri, dotati di straordinari poteri, da vendere in edicola con il meccanismo delle figurine. Risultato? I gormiti hanno prima invaso l'Italia, poi l'Europa. Ora stanno sbarcando negli Stati Uniti, dove faranno concorrenza ai supereroi e addirittura in Cina. Consumi è il vero protagonista del rinascimento del giocattolo. La scheda che avete ascoltato è di Sandro Mangiaterra, una delle più brillanti firme di Nova 24, è qui davanti a me che alza le spalle, ed è anche sicuramente il nostro osservatore più intelligente sui fatti dell'innovazione. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ecco, perché abbiamo scelto i gormiti? Ma perché i gormiti sono... prima di tutto un fenomeno sociale, perché il tuo nipotino potrebbe giocare con il mio nipotino, con i figli, i nipotini di chissà quante altre famiglie italiane e ormai europee. Fenomeno sociale, ma anche un straordinario caso industriale. Perché noi continuiamo a dire, si legge sui giornali, lo dicono gli economisti, lo dicono i politici, dalla crisi si esce con l'innovazione, dalla crisi si deve uscire più forti e migliori di prima, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, c'è qualcuno in Italia, nelle aziende, nelle numerosissime milioni di aziende italiane, c'è qualcuno che questi discorsi qua li sta prendendo molto sul serio e le idee le sta sfornando veramente, idee nuove per affrontare la crisi, di più, per conquistare i mercati internazionali. Ha sentito, dottor Leandro Consumi, come la posso chiamare, dottore, direttore? No, Leandro. Leandro e basta. Leandro. Ecco, facciamo un passo indietro. Io devo dire che la cosa più strabiliante dei gormiti, a mio parere, sono i nomi. Ne ho qui qualcuno che mi sono segnato: la Ipnorana la Beffarda, che è meraviglioso, poi c'è lo Stritolatore, Morsicor. Come nascono questi nomi? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. I nomi sono, allora, inizialmente nascono per un mix di fattori. Allora, da una parte l'aspetto, diciamo, più serio, dovevamo passare al bambino in pochissimo, con parole brevi e suggestive, l'identità, i poteri, la magia di ciascun personaggio. Quindi se io dico Ipnorana, ora vengo dietro al suo esempio, prendo tre obiettivi. Il primo è una rana, no? Si capisce già dal nome. E fin qua ci siamo. Che assomiglia alla rana. Ipno, quindi vuol dire che ha forti poteri mentali, e poi ipnotizzare, quindi si dice anche l'arma principale, o comunque l'arma, il potere principale di questo personaggio. Beffarda dà anche un'accezione al personaggio un po' non crudele, ma insomma, no, che si prende gioco dei nemici, e quindi in due parole già diamo un identikit del personaggio. che poi viene arricchito poi dal 3D, quindi dal personaggio fisico, insomma, e dall'illustrazione sulla carta. Tra l'altro lei ha dichiarato che proprio questa scomposizione del nome è anche il risultato di una scelta a monte. Ho letto in una sua intervista che questi eroi sono sostanzialmente, devono essere sostanzialmente ambientalisti, multiculturali e non hanno armi. Dico sì, bene? Assolutamente, sì. Perché i Gormiti sono, ciascun popolo è legato ed appartiene a un elemento della natura, quindi combattono proprio per la salvaguardia di questi popoli e quindi conseguentemente per la salvaguardia della natura, quindi della vita sull'isola di Gorm, e come in natura, come nei mondi naturali, mare, terra, foresta, pur essendo ciascuno diverso completamente dagli altri, ciascuno ha bisogno degli altri per poter vivere, no? La foresta ha bisogno dell'acqua, della terra e così via. E quindi mi sembrava un ottimo messaggio per i bambini. Ecco, lancio un messaggio anch'io, 824-0024, per chi vuole finalmente parlare con il dico finalmente perché ci sono dei genitori che stanno impazzendo a cercare quell'omino piuttosto che il signore del vulcano, piuttosto che il signore del mare, tra cui anche mia sorella. Ed ho anche l'SMS che è 349-238-6666. Sandro, a quanti personaggi siete arrivati? Consumi? Ma siamo ormai a più di 500, dai 400 ai 500. Ma facciamo un passo indietro. Allora, mi spiega come le è venuta in mente questa idea? Questa idea viene in mente. Cioè, una mattina lei passava e ha detto: ah, Gorm, l'isola di Gorm, Magmion. Come gli è venuto in testa? No, è un inizio. Io all'epoca lavoravo negli uffici marketing della GIG, che è la divisione di Firenze della Giochi Preziosi, e mi avvicinavo per le prime volte, insomma, al mondo del ruolo del product manager, cioè la persona appunto che segue la comunicazione sui prodotti, dal pack agli spot e quindi tutta la strategia di marketing. Ero giovane e in quel momento seguivo prodotti di distribuzione, quindi avevo avuto un piccolo successo con Micronite, che era un rilancio di un vecchio prodotto nel 2002. Dopo di questo mi sono accorto, insomma, mia ambizione personale era riuscire a fare qualcosa di produzione, quindi non prendere un prodotto già esistente e adattarlo al mercato italiano, ma inventarsi qualcosa, creare qualcosa di nuovo da proporre alla mia dirigenza di allora per poter sviluppare qualcosa. E quindi iniziarono una serie di ricerche, una serie di ricerche sia da un punto di vista personale, quindi era un periodo in cui leggevo Il Signore degli Anelli, guardavo i film, insomma, io il tempo. Sì, ecco, perché ricordo che l'ambientazione dei Gormiti, per chi non li conoscesse, è prettamente fantasy, cioè sono mostriciattoli di plastica, altri 2-3 centimetri, che prendono i propri poteri dalla forza della natura. Assolutamente sì. Ecco, comunque lo stile, diciamo, comunque l'ambientazione a cui noi ci ispiravamo era sicuramente appunto quello del fantasy, del Signore degli Anelli o questo genere di... E che cos'è che ha funzionato secondo lei? Perché di personaggi fantasy per i bambini ce ne sono, lei ha citato prima Il Signore degli Anelli, però insomma un immaginario di questo tipo è presente. È indubbiamente vero che i Gormiti hanno un po' rotto questo... Ecco, quando e come e perché vi siete accorti che poteva essere un successo? E quando e come e perché vi siete accorti che poteva essere uno straordinario successo, esportabile in mezzo mondo? Allora, io me ne sono accorto quando ho creato la storia, ha visto quando uno crea qualcosa. Era sicuro? Lei dice a sfondo. No, faccio soldi a palate. No, non ero sicuro in questo modo. Infatti, il primo step, cioè quello che mi ha spinto comunque a portare alla realizzazione del prodotto, l'ho avuto io in macchina mentre ascoltavo la musica. Poi abbiamo presentato il prodotto e devo dire, la lungimiranza a volte anche degli imprenditori, presidente Preziosi, quando vide la mia presentazione, lui era veramente, cioè lui capì prima di me forse delle potenzialità enormi di questo prodotto. Poi lo lanciammo nel 2003 e ci rendemmo conto che c'era della magia, perché dal momento in cui noi li mettemmo a scaffale, noi abbiamo dei dati che vengono dai nostri negozi settimanalmente, Gormiti schizzò in testa alle classifiche, si è fatturato, sia quantità, la quantità se vogliamo era più facile perché era un punto prezzo basso, era un prodotto di acquisto anche di impulso, ma anche a fatturato schizzò in prima posizione e vi rimase ininterrottamente, sia che fossimo in televisione con la campagna TV, sia che non, quando la campagna su TV era finita. Lì ci accorgemmo che c'era qualcosa di magico che andava oltre una buona riuscita di un prodotto. Quindi da subito un boom di vendite che non si, e quindi autoalimentava il successo dei, sì, dei Gormiti. Sì, assolutamente sì. Pensate che quando poi noi a maggio finimmo la merce, finimmo tutto, e tornammo in, a scaffale nel febbraio dell'anno successivo, perché a quel punto tutti si strutturò meglio l'ufficio, eccetera, per rilanciare la seconda serie, no? Quindi ripartendo da capo e migliorando molto anche la qualità del prodotto, perché iniziavamo a avere una certa conoscenza del prodotto stesso, insomma, più approfondita. Quando uscimmo a febbraio del 2006, no scusate, del 2004, quindi l'anno dopo, insomma. L'anno dopo, quando noi mettemmo i display, quindi le bustine a scaffale, prima ancora che iniziasse la campagna TV, erano già esaurite. Andavano via velocissime, con dei numeri mai visti in precedenza. Questa è una cosa che non succede mai nei giocattoli, perché i bambini chiaramente quando giocano, tipo a gennaio di quest'anno, giocano con un giocattolo, se non c'è un cartone animato che li supporta e che ne alimenta, no, la voglia di giocarci, poi passa l'estate, passa l'inverno, tutti gli altri giocattoli arrivano, eccetera, eccetera, è impossibile che a febbraio dell'anno successivo loro ancora si ricordino, no, del giocattolo dell'anno precedente. E invece è successo così, noi li mettevamo. Senta, consumi, la Giochi Preziosi ha subito anche la Giochi Preziosi una crisi proprio in quegli anni, a metà degli anni 2000, legata un po' alla crisi del giocattolo. Tutte le aziende di giocattoli in Europa sono state in difficoltà. Insomma, la Giochi Preziosi si è molto rilanciata grazie ai Gormiti. Quanto valgono i Gormiti per la Giochi Preziosi in termini di fatturato? Quanto pesano? Quanto valgono i Gormiti? Allora, tenete conto che nell'anno che chiudiamo ora, quindi che scusate, che è chiusa a giugno, solo Gormiti, solo nel giocattolo, valgano sui 170 milioni di euro. Accidenti. Però è un dato parziale, perché comunque stiamo partendo ora negli Stati Uniti, stiamo partendo ora nel continente asiatico. Ecco, poi ritorniamo su questo aspetto che è estremamente interessante, ma c'è al telefono Giuseppa da Roma, che ha un figlio di 9 anni fissato con i Gormiti e pensate che ha dovuto fare un accordo con il negoziante di giocattoli per avere ogni volta dei Gormiti diversi. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giuseppe da Roma. Ho sbagliato, Giuseppe è maschile, vero? Sì, perché era diventato talmente assillante la cerca. Si sente malissimo, può provare a avvicinare la cornetta? Mi sente meglio così? Salta un po'. Proviamo a richiamare così ad avere un collegamento migliore. Buongiorno. Allora, torniamo con... Consumi, c'è ancora? Sì, sì, ci sono. Consumi, adesso questa avventura negli Stati Uniti contro i supereroi americani, da pochissimo assorbiti, mangiati dalla Disney, insomma, vi infilate in un vespaio di colossi del giocattolo, è addirittura in Cina, non so, non ho la minima idea con che cosa giochino i bambini cinesi, come fate? Allora, per quanto riguarda gli Stati Uniti, sì, penso una delle più belle sfide degli ultimi anni, perché poi insomma l'azienda italiana entra appunto nella tana del leone in questo caso. Devo dire, noi siamo partiti a febbraio di quest'anno e come noi crediamo fortemente i bambini sono uguali in tutto il mondo, quindi la reazione dei bambini americani è stata molto buona, come paragonabile diciamo alla reazione che abbiamo avuto anche in Europa, in diversi paesi, perché poi Gormiti è un fenomeno che si autoalimenta nel tempo, quindi noi tuttora in Italia, nonostante siamo stati i primi a lanciarli, le nostre quote di mercato sono in continua ascesa. Non è un fenomeno che si brucia in 2-3 lanci, anzi, più ne facciamo e più il bambino si appassiona al gioco. E quindi i segnali sono estremamente positivi. Ecco. E in Cina? E in Cina stiamo partendo veramente ora. Quindi io ho iniziato a vedere ora i prodotti con tutte tutte le mie carte tradotte in cinese, ce n'ho una davanti a me, me lo tengo per ricordo, fa abbastanza effetto. Avete fatto uno studio di mercato sul target del bambino cinese dai 4 agli 8 anni? No, per il bambino cinese no, perché obiettivamente lì è molto difficile anche poter fare degli studi. Stiamo facendo dei test, contiamo di avere a scaffale i prodotti in questi mesi qua, in questo periodo qua. Ecco, Leandro, è tornato Giuseppe da Roma. Buongiorno. Buongiorno, spero mi sentiate meglio. Perfettamente. Mi dica. Stavo dicendo appunto che era diventata talmente assillante la ricerca del gormito mancante che a questo punto io ho fatto un accordo con il giocattolaio da cui ci serviamo normalmente, per cui all'inizio di ogni, come dire, nuova campagna di gormiti il giocattolaio mi mette da parte una scatola intera, per cui a quel punto all'interno di una scatola intera trovo tutti i gormiti che poi, come dire, fornisco a rase al pargolo. Giuseppe, lei scatenerà l'ira dei giocattolai, tutti i bambini vorranno fare questo stesso identico compromesso. Il mio giocattolaio è contentissimo perché praticamente ha una scatola venduta il primo giorno, quindi ho già prenotato la nuova edizione. Grazie Giuseppe. Abbiamo in collegamento anche Luca da Milano che chiede chiarimenti su come è cambiata la sua vita, cioè che ruolo ha adesso in azienda e come è cambiata la sua vita dopo aver inventato i gormiti. Allora, in azienda chiaramente sono cresciuto, ora sono direttore marketing della divisione GIG di Firenze, più di altri, insomma, prodotti, seguiamo anche prodotti di giochi preziosi, e diciamo direttore della task force, è un nome che odio, scusate, ma è così, task force gormiti, cioè di questo ufficio trasversale che si occupa di tutto ciò che riguarda i gormiti. Quindi dalla... Quanta gente fa parte della task force? Chi ci fa parte? Psicologi? Chi? Allora, della task force è un manifolo di eroi, come si può dire in questi casi, cioè ragazzi giovani che hanno un grandissimo entusiasmo e che si trovano... Quanti siete? Ma siamo una quindicina, solo su Gormiti, che non sono poi tantissimi, però insomma sufficienti. Ecco, qui con noi c'è anche Enrico Baldani, che è professore di marketing alla Bocconi e anche direttore dell'Istituto Marketing della Bocconi. Proviamo a inserire la realtà dei gormiti nell'acquario, diciamo, economico-industriale italiano. Come mai? Cioè, com'è possibile che dopo 3 anni, di solito questi tipi di giocattoli dopo 3 anni spariscono oppure vengono sostituiti da un altro genere di personaggio, i gormiti continuano a resistere sul mercato? Buon pomeriggio a tutti. La risposta è molto semplice, perché hanno attuato e realizzato la regola del 10x10. L'innovazione di un prodotto ha uno straordinario successo di mercato quando è 10 volte superiore rispetto a quella dei concorrenti. E qui la regola del 10x10, mi pare dalle parole di chi l'ha inventato e l'ha promosso, si realizza su 2 dimensioni. Uno, ha conquistato l'attenzione del cliente, e qui abbiamo 2 clienti, i genitori. Se andate a intervistare i genitori, dicono: si paga poco ma si gioca tanto, e di conseguenza credono e ritengono che l'investimento fatto sia utile. E 2 è quello per i bambini, i quali lo identificano veramente come un gioco immaginifico. La seconda dimensione della regola del 10x10 è che senz'altro ha un vantaggio competitivo rispetto ad altri prodotti analoghi, altrimenti non si spiegherebbe. Detta in modo ancora più scientifico, tutto questo si traduce con una formula: l'utilità di un prodotto è pari al consumatore al quadrato, il che vuol dire che più il cliente, in questo caso il bambino, apprezza, condivide e sviluppa un passaparola positivo, più si sviluppano delle economie di esternalità che generano il successo. Ecco, in termini brutali, Baldani, i bambini passano la parola, e un bambino che non c'ha i gormiti si sente, come dire, in dovere, in diritto di chiedere ai genitori, eccetera, eccetera, si moltiplica. In una classe prima giocano 5 bambini con i gormiti, poi 10, poi 15, poi tutti. Beh, è stato anche richiamato che il successo si è generato quasi prima dell'investimento di comunicazione pubblicitaria, che vuol dire che il passaparola positivo aveva è già stato funzionato, estremamente efficace. Ecco, noi abbiamo Paolo Ferri in collegamento, che è professore di tecnologie didattiche alla Bicocca. Buongiorno. buongiorno. Facciamo un passaggio, insomma, dal lato industriale invece torniamo un po' ai bambini, ma perché piacciono così tanto i gormiti? Beh, intanto premetto che sono anche padre di un... Non è poco. Nel senso che ne ho 250 in casa, quindi conosco la materia. Si scoprono gli altarini qua. Sì, no, devo dire, c'è una cesta piena di gormiti. Però quello che effettivamente credo sia poi il successo dei gormiti è il mix di capacità di suscitare le emozioni positive e negative dei bambini, nel senso che i gormiti sono sufficientemente mostruosi da come dire, evocare delle paure, ma anche sufficientemente piacevoli da permettere di giocarci, e questo secondo me insieme alla estetica fantasy, che però si coniuga anche un po' con quella dei cartoni giapponesi, probabilmente ne ha fatto un mix irripetibile. Non escluderei anche il fatto della vendita in modello Panini che evoca lo scambio tra pari, perché mio figlio scambia continuamente gormiti con altri suoi compagni di asilo. Grazie Ferri. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono, siamo in collegamento con Leandro Consumi, ricordiamo il papà dei gormiti, buongiorno. Buongiorno. Ecco, vi leggo subito un sms da Alessio da Pescara. Lui dice in modo un po' provocatorio: ma quale prodotto italiano? Perché non dite che i gormiti sono made in Cina? Vabbè, il prodotto, la produzione è in Cina, ma come del resto tutto ciò, mi sento di dire, tutto ciò che è fatto in PV, insomma in plastica, qualunque essa sia la tipologia, senza entrare nei dettagli, è ormai fatto e prodotto in Cina. Se noi facessimo i gormiti, producessimo i gormiti in Italia, vi dico, un personaggino come un gormita invece andare a 2,50 euro al pubblico, andrebbe a 10 euro al pubblico, andremo completamente fuori mercato. Cioè, ecco. Noi abbiamo prodotto per un periodo di tempo l'isola di Gorma, che infatti tutti ci... Che è il plastico, per intenderci. Cioè. Sì, che siccome quando, dopo la seconda serie, appunto, animati dal successo in primavera, provammo a lanciarlo sul Natale e realizziamo questa grande isola proprio per, appunto, fare il regalo natalizio. Fu un grandissimo successo. Tutti si lamentarono del prezzo rispetto anche al contenuto, ma il problema è che fu prodotto in Italia, perché appunto decidemmo di avere una strategia più soft. È chiaro. Di partire soft e quindi di poter approvvigionare in tempo reale le esigenze del mercato, però facendolo in Italia costava tanto e non c'era pressoché manodopera. Ecco, abbiamo, ti interrompo un attimo, abbiamo in collegamento Claudio D'Alecco. Buongiorno Claudio. Sì, buongiorno. Mi dica pure. Io volevo soltanto ricordare, io ho 29 anni, volevo ricordare nella mia infanzia, quando frequentavo le elementari, diciamo la metà degli anni 80, ecco, seconda metà degli anni 80, un fenomeno simile, anche se penso in proporzioni minori, che erano gli exogini, quei piccoli mostriciattoli colorati in rosa, trasparenti, che andavano fortissimo all'epoca. Se li ricorda Consumi? Assolutamente sì, assolutamente. Ci ha giocato anche lei? Io ci ho giocato quando ero giovane, me li sono portati fino al liceo, li impiccavamo in classe durante la... Ah, bello, bene. Consumi, c'è una domanda del professor Valdani per lei. Sì. Quando sia successo, inesorabilmente si è imitato, i concorrenti inseguono. Se ciò si è verificato, con quale strategia avete reagito? Come avete cercato di affrontare l'imitatore? Allora, di imitazione ne abbiamo avute tantissime, sia come prodotto sia anche come strategia, perché poi su distributiva, nel senso su gormiti, noi siamo stati fra i primi ad aprire anche il canale delle edicole, come diceva prima, alla vendita, no? Abbiamo inserito questa vendita di prodotti a basso prezzo all'interno delle edicole, arricchendole con contenuti editoriali, eccetera. Quindi anche in quel caso siamo stati dei precursori, tant'è che in edicola ora troviamo tantissimi prodotti simili, diciamo, commercialmente a gormiti. Le reazioni sono di due tipi. Allora, noi abbiamo avuto il vantaggio di essere stati i primi, quindi mai adagiarsi sui competitors, quindi laddove i competitors hanno delle buone idee, lasciarli andare senza dover avere la presunzione di coprire tutti gli spazi, io parlo in termini proprio di prodotto, e soprattutto poi nelle tempistiche, nella gestione del prodotto, cioè cercare comunque di arrivare sempre primi e soprattutto rinfrescare continuamente i prodotti. Ecco, un'ultimissima domanda, ma non avete pensato a una versione politicamente scorretta dei gormiti, cioè qualche cosa che guarda un po' a un'altra fascia d'età? Perché sono buonissimi, cioè fastidioso per certi versi. No, allora, in realtà, guardate, non è proprio così, nel senso, i valori dei gormiti sono buoni, sono positivi e di questo per noi è un vanto. Noi facciamo giocattoli per bambini, non facciamo prodotti di tendenza per ragazzini o young adult, come si vuol dire, ma quindi no, ci atteniamo a questo mondo qua. Grazie, io ti consumi. Grazie, e magari ci troviamo tra qualche mese a parlare del bis, perché so che avete appena preso la concessione per Geronimo Stilton e lo porterete in giro per l'Italia e per l'Europa provando a fare il bis dei gormiti. Se ci riuscite, ne riparliamo a Nova Lab 24 tra 6 mesi. Molto volentieri. Ecco Sandro, noi continuiamo a parlare di giochi in un certo senso, parlando direttamente con Alberto Zamperla, che è in collegamento con noi, che è uno scienziato del divertimento ed è anche un giostraio, ma vediamo nella scheda di capire più da vicino e di ascoltare chi è Alberto Zamperla. Ama definirsi un giostraio e ammette che sulle giostre si diverte come un bambino. Ma in realtà Alberto Zamperla è uno scienziato del divertimento. 58 anni, è presidente della Antonio Zamperla di Altavilla Vicentina, azienda leader nella costruzione di attrazioni nei parchi gioco. 58 anni, è presidente della Antonio Zamperla di Altavilla Vicentina, azienda leader nella costruzione di attrazioni nei parchi gioco. Piste, dischi volanti, montagne russe e quant'altro. Realizzazioni della Zamperla sono presenti a Disneyland, Euro Disney, Neverland, Legoland e in tutti i maggiori parchi gioco del mondo. Un'azienda che ha un secolo di vita, passata dal cavalluccio delle sagre di paese all'alta tecnologia, dove disegnatori e coreografi lavorano fianco a fianco con ingegneri elettronici, informatici, fisici. Una perfetta sintesi di creatività e high-tech. Perché nei grandi parchi di divertimento i giochi devono essere belli, ma soprattutto sicuri, al punto che ad Altavilla Vicentina si adottano per i test di prova le strumentazioni in dotazione alla Boeing e nell'industria aerospaziale. Buongiorno dottor Zamperla. Buongiorno. Ecco, io ho visto tra l'altro che dal suo sito uno può anche suggerire un'idea di giostra. Certamente, la fantasia è importante, no, nel nostro settore, quindi le idee possono venire da qualsiasi parte. Ecco, ma com'è che funziona? Com'è che nasce una giostra? Una giostra, la capacità più importante è quella di osservare il pubblico e di capire che cosa piace al pubblico. E poi la fantasia è il nostro limite, no? E lo facciamo girare, lo facciamo saltare, e ogni volta incrementiamo o diamo delle sensazioni nuove. Le sensazioni le puoi avere sia fisiche ma anche sensoriali, le puoi avere anche soltanto perché sei al limite o sei su una piattaforma e subito dopo c'è un precipizio, quindi sono anche sensazioni che vengono provocate da questioni psicologiche, quindi è tutto un insieme di cose. Però mi faccia capire, si parte dalla scenografia, da Topolino, dai dinosauri, dai dischi volanti, oppure si parte dalla alta tecnologia, quindi dalla meccanica, dall'elettronica, dai software? Tutte e due le cose sono abbinate, le faccio un esempio stupido, una gru potrebbe essere una giostra, sale, scende e gira. Però se io gliela metto in un parco di divertimento, lei dice quella è una giù. Però se io invece gliela abbellisco e gliela creo che sembra una giraffa che si alza e si abbassa, e dico io salgo sopra una giraffa. Capisce come è importante anche il fattore estetico. Teniamo presente di un fattore, il pubblico che entra in un parco di divertimenti non ha come in un museo il tempo di soffermarsi, mi piace o non mi piace, l'attrazione che io vedo deve attrarre la mia attenzione, deve risultarmi interessante in pochi istanti, quindi il fattore decorativo è fondamentale per il successo di una giostra. Quindi conta più l'artista dell'ingegnere? Poi voi quando mi avete presentato avete detto noi trasportiamo persone. quindi la sicurezza è fondamentale e ancora di più quando una persona va a divertirsi, non, che quindi non pensa, non ha paura, io devo far sì che questa persona, anche se si comporta, chiamiamola prova di stupido, non gli deve succedere niente. Ci faccia qualche esempio. È la grossa responsabilità nostra, che la parte più difficile è prevedere il comportamento delle persone. Zamperla, ci faccia qualche esempio di questa cosa degli strumenti, gli stessi strumenti della NASA, dell'industria aerospaziale, ci faccia qualche esempio, capire meglio. Il nostro sistema di calcolo è IDEAS, che è lo stesso usato dalla Boeing, è stato usato dalla BMW, ed è un sistema di calcolo che prevede le massime sollecitazioni e determina nel tempo quali sono le parti più fragili, le parti che potrebbero rompersi nel tempo, e quindi noi utilizziamo un sistema di manutenzione come quello aeronautico, dopo tot ore di funzione i pezzi vanno sostituiti, non ha importanza se siano già criccati o meno. Io ringrazio Zamperla e chiedo al professor Valdani che cosa ci raccontano queste due storie, se le guardiamo dal basso, dall'alto, insomma, dal punto di vista dell'innovazione. Beh, le storie ci insegnano un significato molto chiaro: o si innova o si muore. Alla base di ogni successo c'è sempre l'innovazione e le aziende che hanno avuto successo sono state costantemente capaci, incrementalmente o radicalmente, di introdurre innovazione. Per rispondere alla domanda di Sandro iniziale, le ricerche dicono chiaramente l'importanza dell'innovazione. Su un campione di oltre 6.000 aziende, il 5% delle aziende che sono riuscite a mantenere per 10 anni una performance economico-finanziaria superiore ai loro concorrenti sono quelle che si sono distinte per la loro costante innovazione incrementale. Grazie Valdani. Ecco, noi restiamo in tema di innovazione perché siamo in collegamento da Londra con Enrico Pagliarini, che sta aspettando di capire che cosa, innanzitutto se torna sul palco Steve Jobs e quali sono le ultime novità della Apple. Buongiorno Enrico. Buongiorno a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, hai detto bene, cercando di capire, perché quando c'è di mezzo la Apple e quando c'è di mezzo un annuncio della Apple non ci si capisce mai nulla, nel senso che vengono fatti numerosi tentativi per indovinare che cosa verrà presentato, ma non ci si azzecca quasi mai. Beh, ecco, provaci a dirci qualcosa, secondo te che cosa verrà presentato? Dai, facciamo una scommessa. Dunque, allora, l'unica cosa che sappiamo è che l'evento si intitola It's Only Rock and Roll But We Like It. Ad alcuni verrà in mente una canzone dei Rolling Stones, anche se era But I Like It la canzone, ma comunque insomma fa un po' la rima con questa vecchia canzone, quindi si parla di musica e sicuramente verranno presentati dei nuovi iPod. C'è chi dice che saranno iPod sempre più touch, alcuni ipotizzano che ci sarà un iPod con la fotocamera, però naturalmente molti si domandano, come tu dicevi, se tornerà sul palco Steve Jobs dopo un periodo che l'ha visto assente sia dall'azienda ma sia anche dal pubblico per un trapianto di fegato. Quindi vedremo tra poche ore. Vi ricordo che l'evento si svolge in California come sempre, ma qui a Londra c'è l'evento europeo, quindi ore 18 ora di Londra, ore 19 invece per l'orario italiano. Grazie Enrico, magari poi durante le prossime trasmissioni ci aggiornerai su quelle che sono le novità della Apple. Nova Lab 24. Clienti odiosi, maleducati, villani. Chi lavora in un esercizio commerciale sa quanto sia difficile mostrarsi gentili con loro. I dipendenti delle due catene inglesi Currys e PC World però non hanno resistito e hanno aperto su Facebook i gruppi Really Stupid Customers e Some Customers Are Really Really Stupid per dare libero sfogo con offese, insulti e invettive alla loro irritazione. Mi compro tutto il mondo. Non è la dichiarazione di un matto, ma lo scopo di Monopoly City Street, versione online su scala globale di Monopoly, il gioco da tavolo più famoso di sempre. L'applicazione sarà basata su Google Earth e Google Street View e permetterà ai partecipanti di costruire l'impero immobiliare dei loro sogni, anche sabotando gli altri giocatori. My name is John Lennon. Da oggi lo si potrà dire, almeno virtualmente. A 40 anni dall'ultimo concerto dei Beatles, il 9 settembre 1969, debutterà insieme alla riedizione della discografia completa in digitale il videogioco The Beatles Rock Band, che permetterà a chiunque di impersonare uno dei Fab Four. Anche nell'era digitale, i baronetti danno filo da torcere ai rivali Rolling Stones. Un censimento di buchi neri. Sembra un'impresa impossibile, ma ci è riuscito un gruppo di scienziati italiani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che, basandosi sui dati del satellite per l'astronomia a raggi gamma integral, è riuscito a calcolare il numero di questi oggetti misteriosi. Lo studio verrà pubblicato sulla rivista Monthly Notices. Sei sovrappeso? Non ti abbattere. Quei chili di troppo potrebbero essere preziosi per curare malattie finora inguaribili. Un team di cardiologi e chirurghi plastici dell'Università di Stanford ha messo a punto una tecnica per ricavare cellule staminali pluripotenti dal tessuto adiposo. Una piccola quantità di grasso potrebbe produrre cellule capaci di riparare danni al cuore o curare il morbo di Parkinson. Bentornati, in studio sono stato raggiunto da Pierangelo Soldavini che mi ha portato le bozze di Nova, il settimanale che trovate domani al Sole 24 Ore. Che cosa scriviamo domani, Pierangelo? Dunque, diciamo che proseguiamo il discorso che stavamo facendo prima su innovazione, stavate facendo prima su innovazione e creatività, o anzi, meglio, facciamo l'antefatto, nel senso che il titolo è l'investimento migliore in tempi di inizio della scuola. Abbiamo notato che anche in Italia le cose stanno un po' cambiando. Abbiamo visto file per i test per i politecnici, inversioni di tendenze per quanto riguarda le iscrizioni alle università scientifiche, anche magari quelle più ostiche come fisica. Raccontiamo anche delle storie dentro al paginone delle storie, di Nova. Sì, perché appunto abbiamo visto che tutto questo ha anche degli effetti benefici di ragazzi normalissimi, non geni, che si mettono in evidenza in competizioni internazionali, sia aziendali, concorsi di Airbus, di Novartis. Un moto d'orgoglio, lo possiamo dire, un po' d'orgoglio, una copertina di orgoglio sulle nostre... Ma di orgoglio, ma di come l'ha detto proprio ieri Obama, mi sembra Barack Obama, no? per l'inizio della scuola, come dire, è l'investimento migliore, ci ha anticipato un pochettino, ma siamo in sintonia. Uno non nasce genio, ma bisogna essere educati, per cui talento, genio e formazione, questa è la cosa importante e su quale noi di Nova non smetteremo mai di pestare duro, di come pestare si dice, duro. No? Baldani, dice... lei che è professore della Bocconi, che mi dice su questa nuova tesi, cioè che gli studenti italiani sono pronti a mettersi in gioco, a proposito di gioco, anche nella fase dell'università? Beh, hanno capito che le scorciatoie non esistono più. Per riuscire a conseguire un risultato nella vita bisogna investire su se stessi, in particolare sulla conoscenza. Io ringrazio Pierangelo Soldavini, vice caporedattore di Nova 24, il professor Enrico Valdani della Bocconi e naturalmente Sandro Mangiaterra, che tornerà ogni settimana a raccontare storie di innovazione e di innovatori. L'appuntamento quindi è per domani alle 4. Buonasera. Salve a tutti. Buonasera a tutti.